oltre a pensarti, pensarti, sognarti, sognarti, ti ritrovi ogni più singolo giorno, singolo giorno. Sì, sì, sì. Ho una persona speciale, sono speciale, sono speciale. E quella persona che mi guarda dall'assù, dall'assù. E per te non, per te non. Queste canzoni per te, è per te. La tua penna in mano è un ricordo in testa, traghettato da ogni lacrima che resta, con mille ricordi che rinchiudo dentro. Da sveglio va lui, il primo pensiero, come da piccolo mi ha insegnato a camminare, fino a che te ne sei dovuto andare. Lasciato ogni singolo pezzo tu qua giù, sono ricordi perché non posso vederti più. Condisco la vita con i tuoi insegnamenti, ma mastico amaro senza fare riferimenti. Questo per farti vedere ciò che ho fatto, mi scuso per tutto quello che non ho fatto. Sono diversi infatti come i miei argomenti, oggi combatto per nuovi avvenimenti. Stupido perché tu sai ciò che sto facendo, soprattutto resto in piedi e non mi arrendo. Corravamo insieme nel cortile del palazzo, più ci penso è noto di quanto eri pazzo. La tua carica di vita mi ha insegnato tanto, che la riprendo ogni qualvolta che sono affranto. Di quante volte mi dicevi non mollare mai, e soprattutto lottare finché ce la fai. Parole nascoste nei tuoi mille cruciverba, il tuo consiglio rendeva ogni cosa meno acerba. Dentro ogni tua parola a lunga durata come la stagnola, scrive rima da quando ho capito che ciò che scriviamo resta spesso indelebile. Scusa se bagno i miei occhi e ti penso, spesso senza di te non trovo un senso, perché tu mi hai insegnato a sognare, ma te lo negano prima che lo inizi a fare. Le ultime parole le hai dedicate a me, stai sempre bene mi raccomando, perché amavi di me ogni mio sorriso, ormai ti porto dentro come un inciso, tanto da tatuarlo sulla mia pelle. Per me risiedi nella luce delle stelle, hai vinto perché nessuno ti ha dimenticato, raccogliendo tutto ciò che hai seminato, fatto di tanto amore per chi ti era vicino, hai lasciato tanto sul nostro cammino. Troppe volte mi sono ritrovato a sognarti, e ciò rispecchia di quanto io posso amarti, soprattutto se mi perdo nel mio passato e tutto ciò che tu mi hai insegnato. Riparlerò sempre di te come in questa canzone, così ai miei figli parlerò di un nono campione. Per te.